Salve a tutti, bentornati sull'Arcadia, bentornati su Radio Big World. Ora, come molti di voi sicuramente sapranno o immagineranno, io amo queste cose sulle teorie strane o pensieri alternativi. Trovo che alcune cose siano veramente interessanti, veramente. Quindi, se avete almeno qualche dubbio, qualche domanda, qualche iniziate a scavare su alcuni argomenti come la terra piatta, si possono trovare un sacco di cose che veramente fanno esplodere il cervello. Uno dice no, è impossibile, non ci posso credere, però dice, perché c'è tutta questa gente che dice queste cose strane sulla forma della Terra, che vede la Terra in maniera diversa, vede le cose in modo così differente da noi? Queste persone che credono a questa cosa pazzesca che la Terra ha una forma diversa rispetto a quella con cui chi ci hanno insegnato a scuola, così dal nulla, è quasi incredibile, no? Durante questa mia esperienza, durante questo mio viaggio in questo nuovo mondo che ho trovato, questa nuova realtà che ho trovato, in cui mi sento parte integrante di questa realtà che ho scoperto. Io la chiamo realtà perché per me è quello che è vero, poi ognuno percepisce le cose in maniera diversa, ma come mi piace dire, una bugia rimane una bugia, anche se tutti ci credono, una bugia rimane una bugia. Quindi il fatto che uno crede a una bugia non significa che quella è la realtà. Quindi uno può dire l'11 settembre è stato organizzato dal governo, il governo ha ucciso Kennedy, l'atterraggio lunare è stato finto, Illuminati, scie chimiche, alieni, Area 51, addirittura anche Tyson, Neil deGrasse Tyson e Elon Musk hanno detto che si potrebbe essere tutti, potremmo tutti essere in una realtà virtuale, e quello è il mondo in cui siamo, quello dove siamo sia una proiezione della nostra mente. In realtà il nostro corpo è da un'altra parte, e tutti e due, sia Elon Musk, quello che ha mandato la macchina nello spazio, sia Neil deGrasse Tyson, ha detto che c'è una grossa percentuale di probabilità che viviamo in una realtà virtuale, che siamo in una simulazione. Niente di tutto questo è reale. Se quando tiri fuori questi argomenti, la gente di solito non ci fa nemmeno caso, scrolla le spalle e se ne va. O al massimo pensano che sia un po' di fuori, ma niente di che, non è che si arrabbiano, ti sfottono fino alla fine dei tempi. Non se la prendono più di tanto, non si sentono fisicamente arrabbiati, non mi viene fuori quella rabbia che invece vi arriva, che invece ti arriva addosso quando dici quelle due parole, terra piatta. Boh, come si arrabbia la gente, come inizia a offendere, non ragiona più, perde veramente il controllo. Quindi continuerò a parlare di queste cose, continuerò a ricercare queste cose, e sicuramente questa è l'ultima cosa che mi aspettavo di fare nella mia vita, andare a parlare della terra piatta, del fatto che non viviamo in un globo e ci inganna. Io che mi fidavo tanto della scienza, confidavo tanto nella scienza, nelle nelle cose futuristiche, nei governi, e ora invece ho completamente rimosso tutto, nego tutto quello in cui credevo e ho cambiato completamente parte. Ho cambiato completamente punto di vista. Sono diventato un'altra persona rispetto a quello che sono prima. Cioè, sono sempre io, ma c'è qualcosa in più adesso. Dopo tutte queste ricerche, dopo tutti i ragionamenti, dopo tutto quello che uno vede, sente, poi ragiona per conto suo e si ritrova qualcosa in più. Non qualcosa in meno, si ritrova qualcosa in più. Anche se questo è un argomento che viene ridicolizzato, viene preso in giro da un po' tutti, soprattutto dalla televisione, soprattutto da questi famosi scienziati che tutti amano, e anch'io pensavo fosse così, finché non inizi a scavare, a cercare. Scavare è una metafora per quando uno cerca. Quando uno cerca informazioni devi andare in profondità, non ti devi fermare in superficie. E piano piano trovi sempre più cose interessanti, sempre più cose strane, incredibili, a volte da credere. Però poi se... anche perché questo è difficile, anche perché, come ripeto sempre, ci mentono i media, ci mentono... Non è anche che... Sappiamo che quello che vediamo spesso su internet, la maggior parte delle cose sono cavolate o sono cose fatte per farci credere una determinata cosa. Però quando quello che vedi torna perfettamente con quello che senti fisicamente, con quello che pensi, con quello che vedi davanti ai tuoi occhi, che puoi provare con le tue mani, allora cos'è il reale? È reale quello che sento, quello che provo, o è reale quello che mi fanno credere che sia reale? Che mi dicono che è reale, ma io non lo vedo. E qui non si tratta di essere convinti di una cosa o essere convinti di un'altra. Cioè, è incredibile come sempre più un sacco di persone iniziano a vedere le cose in maniera diversa, mentre altre invece si chiudono sempre di più a riccio in se stesse e preferiscono arrabbiarsi, preferiscono deridere invece che approfondire l'argomento. Qui non si tratta dei vaccini, di fluoro, di quello, di quell'altro. Qui si tratta della realtà in cui viviamo. Si tratta di quello che ci insegnano da quando siamo piccoli. Poi ne parlerò anche più avanti in un'altra puntata, questa cosa dell'insegnamento, del fatto che uno parte che non sa niente, è un guscio vuoto, deve essere riempito, ma se lo riempi di cazzate viene fuori un mostro, viene fuori un troiaio, no? Può essere tanto intelligente, ma se è pieno di cavolate, tutto quello che dice sono bugie. Cosa hai creato? Hai creato una persona, hai creato un essere che è capace di creare, è capace di dare coraggio agli altri, è capace di infondere fiducia agli altri, di migliorare la vita per se stesso e per gli altri. Invece no, cosa abbiamo? Abbiamo unità singole, e le chiamo unità perché ci hanno fatto diventare dei robot o degli zombie. A me piace più zombie, però in questo caso torna meglio robot che pensano solo a se stessi, pensano al proprio io qui, io là, io su, io giù. Non c'è il noi, perché se fossimo davvero tutti insieme, se non ci avessero diviso, non ci avessero fatto concentrare così tanto su noi stessi, a quest'ora si era già per la strada a rivoltarsi contro questa gente. Insomma, io anche stamani, per l'ennesima volta, sui giornali leggo delle buche di Arezzo, perché effettivamente non mi ritengo di Arezzo, ma è come se lo fossi. Beh, nel senso, è comunque Italia. Nord, sud, non cambia niente. Siamo comunque nello stesso paese e viviamo sulla stessa terra. Paghiamo tutte le tasse. Tutti cerchiamo di sopravvivere. E anche stamani sui giornali di Este Buche, la città Groviera è stata nominata, no? Quindi non ho letto chi ha fatto l'articolo, comunque ringrazio le persone che hanno iniziato a alzarsi e hanno iniziato a dire le cose come stanno. Anche le piccole cose come può essere una buca, però quella cosa lì magari infonde coraggio su a un'altra persona che c'ha un'altra idea e non la dice, c'ha un'altra opinione e non la dice perché ha paura, ma vedendo quella persona che si alza, che si mette davanti e dice qui non va bene, dice oh, allora non so solo. Allora c'è chi la pensa come me, c'è chi combatte per ciò che è giusto, c'è chi combatte contro le ingiustizie, c'è chi si impegna per la verità, per migliorare le cose. Non ci sono solo i buffoni che hackerano così a caso e diano un sacco di baggianate. Poi magari uno come me, io a volte, purtroppo a volte mi fa prendere da dire rabbia, mi suona male perché non è proprio rabbia, però è un fuoco che brucia. Ma brucia tanto, a volte brucia talmente tanto che non riesco a contenerlo. Perdo, diciamo, un po' il... mi lascio... non è che perdo il controllo, però mi lascio trasportare da questa fiamma che brucia e a volte va oltre. E mi dispiace, quindi voglio chiedere scusa a, magari anche a qualche mio amico con cui ho, diciamo, un po'... forzato le cose. Però il punto è questo, è che si può sbagliare. Il fatto che uno sbaglia non significa che è un idiota o è... dipende perché uno sbaglia. Se uno sbaglia cercando di fare la cosa giusta è una cosa, se uno sbaglia perché vuole sbagliare, perché sta facendo volontariamente la cosa sbagliata, allora quello è un altro discorso. Come i politici. I politici, c'è chi crede che facciano, si impegnino per migliorare le cose, quando invece si stanno impegnando per far peggiorare le cose. Almeno io la vedo così. Insomma, siamo ancora senza governo. Vai. 4. Siamo il 18 aprile 2018. Siamo ancora senza governo. L'ultimo governo, se si può definire così, è stato quello di Berlusconi. È stato tanti anni fa. Comunque non voglio parlare di politica. Io voglio parlare di terra piatta. Poi certo c'entra anche la politica, c'entrano altri complotti. Insomma, alla fine, per il discorso della terra piatta, ci sono un sacco di persone. Insomma, non c'è solo gente come me che a un certo punto si è resa conto c'era qualcosa che non andava. Ci sono piloti di aerei, ci sono ingegneri, costruttori, scienziati seri, non quelli che vedevano e Pluto, c'ha il disegno di Pluto sopra, o che c'è la faccia di Topolino su Mercurio. Se c'era una cosa in cui credevo, in cui ho sempre creduto fin da quando ero piccolo, fin da quando ho ricordo, fin da quando posso, diciamo, ricordare le cose, o un minimo ragionare, ho sempre creduto nella giustizia. Questa è una cosa in cui non ho mai smesso di credere, nella giustizia, la giustizia quella vera che protegge gli innocenti, protegge chi si impegna per il bene di tutti, chi si impegna per migliorare le cose. E crescendo ho iniziato a smettere di credere, ho iniziato a smettere di anche forse di arrabbiarmi, ho iniziato ad accettare le cose piano piano, anche se stava andando sempre tutto peggio, anche se vedevo peggiorare le cose intorno a me piano piano, me ne fregavo, perché io stavo bene, io c'avevo le mie cose, quindi chi se ne frega se il resto è una merda, no? Però poi arrivi a un certo punto in cui ti fermi, qualcuno si ferma e dice no, è sbagliato. So che la terapia, il discorso della terapia è collegato molto al, viene collegato parecchio alla religione, a Dio, alla Bibbia e tutto il resto. Quello viene dopo, quello viene dopo. Io credo l'importante sia scoprire la verità e tirar fuori la verità. Qual è il punto della situazione? Il punto della situazione, secondo me, è che ci hanno mentito, ci stanno mentendo, continuano a mentirci, sia con svariati attacchi terroristici finti, sia con false notizie, e questo è, come ho detto tante volte, controllo. È controllo. Quindi qual è la verità? Perché non vogliono... Se davvero ci fosse, in questi giorni tanta gente mi ha criticato, mi ha contestato, però se davvero, insomma, ora iniziano ad essere diversi i terapeutisti, quindi se davvero, invece di mandare una macchina nello spazio, no, che costa chissà quanto è costato, miliardi su miliardi, continuare a mandare satelliti, fake X, e altre cose nello spazio, fa finta di riuscire a fare grandi cose, perché non si prende un aereo che gli costava quanto sarebbe costato meno prendere un aereo, si piglia un aereo e si parte da un punto della terra, da una città, si segue sud senza mai girare, senza mai cambiare direzione, andando a sud. E ti fai tutto il giro della Terra passando dal polo sud. Passi dal polo sud, dal polo nord e torni da dove sei partito. Perché questa cosa non è mai stata fatta? Siamo nel 2018. La gente vi dice, c'è quelli che sfottano e dicono ah, la curvatura, c'è la curvatura, vedo la curvatura dall'aereo. Non è vero, quello non è vero, siete dei cialtroni, voi terapeutisti, dicete un sacco di cavolate. Dimostralo, dimostratelo, insomma, dimostratelo anche per voi stessi. Iniziate a farvi delle domande. Perché non ci sono immagini di nessuna eclissi vista dallo spazio o dall'ISS o da un satellite? Perché non ci sono immagini di un meteorite, di un qualcosa da un satellite? No, quella famosa, quel famoso video del che è anche stato messo in un film, mi sembra, forse in Transformers, che casca quel, che si vede quel coso cascare in Russia, ammesso che sia un meteorite, però c'è solo quelle immagini lì, uno lo vede cascare dal cielo una palla di fuoco e pensa immediatamente quello è un meteorite. Perché non ci sono immagini dallo spazio di quella cosa lì? Insomma, ci sono oltre 3.000 satelliti funzionanti nello spazio. Da alcune parti trovi, ti dicono che sono 13.000, altri ti dicono che sono 17.000, altri ti dicono che sono 3.000, 4.000 più, altri 15.000. Anche la stazione spaziale giapponese. Perché non ci sono le immagini di quando cade a terra e ritorna sulla terra? Però la gente nega queste cose, non l'affronta nemmeno, inizia a tirarti fuori altri discorsi. Perché? Perché non ce la fa ad affrontare questi discorsi qui, perché l'unica spiegazione è che ti mento. Quindi è questo che viene fuori. C'è chi dice oh, hey, non mi torna, allora cerco, mi voglio informare su questa cosa, perché cavolo mi devono mentire sul pianeta, se dove vivo è un pianeta o no, se siamo stati creati da Dio come è scritto nella Bibbia o come dicono altre religioni, o se davvero siamo su una palla rotante. che schizza nello spazio. Insomma, c'è una bella differenza tra essere in un piatto chiuso da una cupola o in una palla rotante che vaga nell'infinito a una velocità astronomica. In uno tu sei protetto, nell'altro sei insignificante. Quindi vi lascio così. La prossima tratterò alcuni argomenti particolari su delle immagini e, diciamo, anche immagini mitologiche o comunque dei riferimenti della Bibbia che possiamo ritrovare nella vita. Vi ringrazio, grazie a Radio Big Word, grazie di essere stati con me e ciao alla prossima.